in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa per l'appunto domenicale. È la prima domenica di settembre, ma è anche l'ultima domenica in cui faremo questa variante dedicata ai settimanali. Poi da domenica prossima riprenderemo, perché domani, lunedì, riprende la programmazione post-estate di Radio 24, e quindi la rassegna della domenica sarà dedicata, come sempre, ai quotidiani. Una cosa però non cambierà, ed è il nostro inizio, che è il breviario di Gianfranco Ravasi, la rubrica che Gianfranco Ravasi appunto ha sulla prima pagina del Sole 24 Ore, della domenica del Sole 24 Ore ogni domenica. Questa settimana si intitola Computer e la citazione è di Gianfranco Ravasi. La citazione è di Pablo Picasso. I computer sono inutili, ti sanno dare solo risposte. È fulminante questa battuta di Picasso, pronunciata in un tempo in cui i computer erano ancora nel paleolitico informatico. La verità della sua affermazione si è irrobustita oggi, quando le meraviglie della virtualità sembrano non conoscere confini. I nativi digitali senza sorpresa e noi, che siamo solo migranti digitali, con qualche imbarazzo ci troviamo di fronte a panieri immensi di dati nei quali ci si può solo tuffare, spesso col rischio di annegare. Sì, abbiamo innumerevoli risposte, ma tra loro contraddittorie, e le nostre domande rimangono inevase, così che progressivamente ci si rassegna a spegnerle e a raccattare qua e là nella marea delle risposte quelle più colorate e attraenti. Oppure può accadere quello che registrava uno che di orizzonte se ne intendeva molto, Umberto Eco. Una volta chi doveva fare una ricerca andava in biblioteca, trovava 10 titoli sull'argomento e li leggeva. Oggi schiaccia un tasto del suo computer, riceve una bibliografia di 10.000 titoli e rinuncia. Credo che sia una riflessione molto interessante l'idea appunto che internet è un mare magnum, internet è il World Wide Web, che letteralmente significa la rete grande come il mondo, e forse appunto c'è troppa informazione. Questo in un certo senso mi fa anche pensare che forse il ruolo per esempio dei giornalisti è quello di essere un filtro, poi ci si può affidare o meno, si può pensare che un giornalista sia il filtro giusto o invece sceglierne un altro, però il nostro lavoro si sta trasformando anche in questo, appunto nel selezionare per voi in questo World Wide Web, in questo mare magnum, nel nostro caso di informazione soprattutto legata alla cronaca. La copertina però vera e propria, diciamo il pezzo di copertina vero e proprio, è di Armando Massarenti, che del Domenicale è il responsabile, ed è dedicato alla musica classica, ma se vogliamo anche contemporanea, perché in particolare è una recensione vecchio stile, potremmo dire, di un libro di Luciano Berio che raccoglie le interviste e i colloqui. Tutto il titolo di questa lunga recensione, corredata tra l'altro da un estratto di questo libro, è «Tutto intorno a noi è nuova musica». Tra suoni, architettura, filosofia e scienza, la voce di Berio nei dialoghi con Eco, Piano e Regge. Poi la terza pagina della domenica, dedicata a un bellissimo libro che tra l'altro verrà presentato al Festival della Letteratura di Mantova domenica prossima, nell'Aula Magna dell'Università. Lo ha scritto Cristina Battocletti, che del Domenicale è una delle giornaliste di punta, ed è, l'abbiamo segnalato credo anche all'inizio di questa settimana, perché c'era una lunga recensione sull'Avvenire, è una biografia di Bobby Bazlen, che è stato il fondatore di Adelphi, forse la casa editrice più innovativa tra quelle nate appunto tra quelle non storiche, e però è stato anche un grande personaggio per la sua città. È stato per esempio è stato un traduttore, è stato un copy editor in casa editrice, insomma un personaggio veramente interessante. Attraverso Bobby Bazlen possiamo rileggere la storia dell'editoria italiana, ma anche dell'Italia e di Trieste. Un approfondimento sul premio Campiello, e anche in questo caso poi tra l'altro uno dei candidati, che è Mauro Kovacic, sarà poi anche lui al Festival della Letteratura di Mantova, un Campiello di storie e lettori forti. E poi Giancarlo Calza, invece, per quanto riguarda la sezione dedicata all'arte, ci racconta una mostra che inizierà a Venezia il 9 settembre, Marajà Kechondolo, esposta a Palazzo Ducale la spettacolare collezione Altani di gioielli indiani, simboli della maestà di principi e sovrani. Passiamo all'altro supplemento domenicale dedicato alla cultura, è la lettura del Corriere della Sera, che, come abbiamo ricordato settimana scorsa, ha appena compiuto 300 numeri, mentre il Domenicale del Sole ne ha compiuto anni, non numeri, non 300, però sicuramente ha molta più storia. La lettura però continua a questa sua formula della mettere in copertina, affidare la copertina a un artista. Questa settimana è Shirin Neshat, e dall'interno vi segnalo questo bellissimo ritratto, colloquio, ricordo, analisi, non so nemmeno io come chiamarla, sono 4 pagine. C'è una parte di intervista, ma è molto interessante anche proprio come viene introdotta, e tra l'altro le domande, che sono molto lunghe, quando in un'intervista le domande sono molto lunghe, se sono fatte bene, sono quasi importanti quanto le risposte. È di Livia Manera, che ha intervistato Philip Roth, forse uno dei più importanti scrittori americani del secondo Novecento. Alla vigilia dell'uscita negli Stati Uniti di una raccolta di saggi, il romanziere che meglio di tutti ha interpretato il secondo Novecento americano rompe il silenzio e accetta di rispondere ad alcune domande della lettura. E soprattutto dice: ho smesso di scrivere, è un modo di vivere. E io trovo sempre interessante le persone che a un certo punto decidono di fare un passo indietro, perché appunto può capitare che uno alla fine dica basta così. Vi dicevo, il libro si chiama Why Write? Collected Nonfiction, ed è in uscita negli Stati Uniti il 12 settembre. Un bel ritratto di Serena Danna, fatto alla un ritratto, ma anche in questo caso poi ci sono delle domande e risposte, ma come sempre appunto a volte l'intervistatore ha un ruolo importante. Se l'intervista è fatta bene, come dico, le domande sono importanti quanto le risposte. In questo caso la persona con la quale Serena Danna ha parlato è Chimamanda Ngozi Adichie, che è diventata famosa perché ha scritto questo libro che si intitola 15 consigli per crescere una bambina femminista, l'ha pubblicato in Audi. Ma incuriosisce sempre l'uso della parola femminista, perché sembra quasi che sia diventato un insulto, quando in realtà io personalmente penso che non lo sia assolutamente. Il titolo di questo lungo colloquio è Voglio uomini che piangono, e la scrittrice appunto racconta come il femminismo sia sempre stato la sua causa e spiega perché ripensare alla mascolinità sia anche una priorità politica. E su Trump dice: i valori che credevamo connaturati al sogno americano stanno svanendo. Ultima segnalazione dalla lettura, prima della pausa sul traffico, è un bellissimo ritratto fatto da Daniel Pennac, lo scrittore francese, di Robert Doisneau, che è uno dei più importanti fotografi francesi. Alcuni ricordano alcuni suoi scatti, tra cui il famosissimo Bacio. E questo soprattutto Daniel Pennac spiega quanto impegnato, quanto convinto della necessità di arrivare alla pace vera, che parte dalla pace tra le singole persone, la comprensione. Era un uomo libero e coraggioso, moralmente incorruttibile, che aveva vissuto da vicino i conflitti del Novecento. Ci fermiamo però un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli. Avevo detto, passiamo poi oltre la Domenica del Sole 24 Ore e la lettura del Corriere della Sera. In realtà permettetemi un'altra segnalazione, ultima, a pagina 42 della lettura, la recensione di Matteo Persivale, che conosce benissimo l'inglese e legge spesso in anteprima i libri che ancora non sono tradotti dall'inglese in italiano. In questo caso è per gli amanti di John le Carré, è veramente una chicca, perché c'è il ritorno di Smiley, la mitica spia, George Smiley, la mitica spia creata da John le Carré. Non si vedeva in giro da 27 anni, il suo autore ne ha quasi 86, l'eroe di le Carré si ripresenta in un romanzo sorprendente. Ma dicevamo, passiamo ad altri settimanali. La Sport Week, che è il settimanale allegato alla Gazzetta dello Sport, Ah, in copertina un personaggio che forse non è tanto conosciuto qui, anche perché il football americano è seguito da sicuramente una nicchia di appassionati, ma non è certo uno degli sport più popolari in Italia e in Europa. Questo sportivo si chiama Colin Kaepernick ed è un difensore dei diritti civili e in particolare cerca con il suo contributo di sportivo, tanto che viene definito il Muhammad Ali di questa generazione, di difendere, di cercare di diminuire quello che è ancora un razzismo e un gap dei diritti civili tra bianchi e neri. Un tema sicuramente difficile da capire per noi che non viviamo negli Stati Uniti, ma molto attuale. Basti pensare ai fatti di Charlottesville con la manifestazione dei suprematisti bianchi. Vi segnalo Bloomberg Business Week, il settimanale di economia, per due motivi. Il primo è perché la copertina è dedicata alla Unilever, che forse loro la definiscono l'ultima grande società, perché è una di queste aziende del largo consumo che ha marchi di tutti i generi possibili e immaginabili, che sono appunto composti nella prima pagina. Forse andiamo verso un'epoca invece di maggiore specializzazione, dove questo vale un po' per tutti i settori, dove avere aziende troppo grandi che devono occuparsi di prodotti molto diversi, forse non sono più, non è più, insomma, il modello di business migliore. Ma vi segnalo il secondo motivo, che è un articolo che si intitola When la dolce vita starts to sour, quando la dolce vita comincia invece a diventare salata. E il riferimento è all'introduzione che c'è stata proprio in questi giorni in Italia del reddito di cittadinanza, possiamo chiamarlo così, lo traduce Citizen Income, Bloomberg Business Week, e dice è un esperimento da guardare attentamente, perché questo tema del reddito di cittadinanza, reddito di base, reddito di inclusione, possiamo chiamarlo come vogliamo, è di attualità, molto di attualità in molti paesi europei e anche negli Stati Uniti. Passiamo a internazionale, il nuovo numero di internazionale in edicola da venerdì scorso. La copertina è dedicata a Naomi Klein, forse qualcuno la ricorderà come l'autrice di No Logo, un libro che tanti anni fa, 20 più o meno, ebbe molto successo e innescò il dibattito sul ruolo delle multinazionali. Naomi Klein ha continuato a occuparsi di questi temi. Le multinazionali statunitensi sfruttano crisi ed emergenze per fare profitti e oggi i loro dirigenti sono ai vertici dell'amministrazione Trump. Quindi, naturalmente, molto critica poi la visione di Naomi Klein sull'amministrazione Trump. Vi segnalo un tema che ho avuto occasione anche di segnalare nella rassegna stampa giornaliera perché mi colpisce tantissimo ed è quello che sta succedendo in Birmania. Con questa minoranza perseguitata, la minoranza dei Rohingya, migliaia di civili scappano verso il Bangladesh per evitare la rappresaglia scatenata dalle forze di sicurezza birmane contro i gruppi di questa minoranza, che è una minoranza musulmana. Perché dico che mi colpisce così tanto questo fatto? Perché il ministro degli esteri della Birmania è quella Aung San Suu Kyi che ha vinto il premio Nobel per la pace. Che ci sia una minoranza perseguitata in un paese dove un ruolo primario di governo è esercitato da un premio Nobel per la pace è una cosa che mi fa impazzire, non riesco veramente a comprendere come possa succedere. Poi, siccome parliamo sempre di migranti che arrivano dall'Africa, di flussi migratori che dall'Africa interessano soprattutto l'Europa, ce ne sono anche di interni all'Europa e li racconta questa rivista polacca che si chiama Critica Polityczna e lo trovate sempre su Internazionale. L'articolo è intitolato Gli ucraini in fuga. Gli emigrati che negli ultimi 3 anni hanno lasciato l'Ucraina per andare a lavorare in Polonia sono, pensate, più di 1 milione, essenziali per l'economia locale, ma rimangono cittadini di serie B. Poi un'ultima segnalazione. Questo è un articolo secondo me interessantissimo, Mauro Meazza direbbe da meditazione e tra l'altro vi approfitto per ricordarvi che da domani all'interno del nuovo palinsesto di Radio 24 ci sarà anche il nuovo programma che Mauro Meazza condurrà insieme a Deborah Rosciani. Il titolo di questo articolo, da meditazione per l'appunto, è tratto dall'Atlantic, che è un mensile americano. Tra l'altro la cosa interessante è che è stato comprato dalla vedova di Steve Jobs, che si è data così all'editoria di carta. E il titolo dell'articolo è: perché i giapponesi non fanno figli? Il problema non è il disinteresse dei giovani per il sesso, questo si è spesso detto, o il numero sempre più alto di donne che lavorano. Se in Giappone ci sono pochi bambini è colpa del precariato. Un tema davvero sul quale riflettere, perché se è vero che molti paesi, molte economie avanzate, gli Stati Uniti prima di tutte naturalmente, hanno puntato molto sulla flessibilità del lavoro, che però può anche essere letta come precariato, è anche vero che ci sono degli innegabili problemi quando uno ha un orizzonte di lavoro limitato. Il supplemento settimanale del Corriere della Sera, 7 proprio numero, ha proprio cambiato anche da quando lo dirige Beppe Severgnini, non è più scritto per esteso 7 ma rappresentato dal numero. Il tema di questo dell'ultimo uscito è: cos'è la vanità oggi? La foto di copertina è uno splendido scatto di Brigitte Bardot, quindi degli anni 60 penso, su uno sfondo rosa. La vanità era un vezzo innocuo, oggi è diventata il carburante della società. Ma quanto ci costa? E un po' il fil rouge, il senso di questa copertina, lo racconta proprio il direttore Beppe Severgnini a pagina 13. Vi leggo la prima parte. Ci sono due vanità, una buona e una meno buona. La vanità buona è la gioia nel veder riconosciuto il proprio lavoro, il proprio valore, il proprio fascino. Perché no? È un carburante sano, aiuta ad andare avanti. La vanità meno buona è ostentazione, sfoggio, esibizione, meno sana, anzi patologica. Purtroppo è quest'ultima che oggi domina la scena. E invece passiamo un attimo ai supplementi dedicati alle... sono dei femminili, ma come dico sempre, credo che ci siano anche tanti uomini che leggono questi magazine pensati per le donne. Cominciamo da DD Repubblica, che viene appunto allegato alla Repubblica, al sabato. La copertina è dedicata a Diane Kruger, attrice Il mio cuore ritrovato. Diane Kruger era diventata famosa soprattutto per essere stata scelta per interpretare Elena di Troia nel film Troy. E sapete che Elena di Troia è passata alla storia, grazie naturalmente a Omero, per essere la donna più bella del mondo in quella lontana epoca, e così forse anche Diane Kruger ha dovuto poi pagare un prezzo a questa etichetta che le era stata messa. E di questo tema lo tocca il direttore di Repubblica, Valeria Palermi, nel suo editoriale. Dovreste leggere questo numero con una colonna sonora speciale: Oasis, Joy Division, New Order, The Stone Roses, The Smiths, volendo i Take That. I più esperti di voi se ne saranno già accorti, sono tutte band di Manchester, non a caso. La città inglese è una delle protagoniste di questo numero, che come sempre un filo rosso ce l'ha, e stavolta penso sia più bello del solito, perché è quello della rinascita, del ripartire, reinventarsi, rifondarsi. Insomma, abbiamo fatto un numero restart, perché il 2 di settembre, dopo la pausa estiva, rappresenta davvero un nuovo inizio. E da qui appunto la scelta, una che ce l'ha fatta a ripartire, a reinventarsi da capo a piedi, è la nostra donna copertina, l'attrice Diane Kruger. E credo che molti di noi condividano questo, anche se magari come me non hanno figli da rimandare a scuola, però il ritorno dalle vacanze, se ci sono state, o comunque la fine dell'estate, rappresenta appunto il vero forse inizio di un nuovo anno, il vero capodanno. Vi segnalo poi un approfondimento di Luciana Grosso sulle elezioni tedesche. Domani in Germania ci sarà il primo dibattito televisivo, il primo confronto televisivo molto atteso tra Angela Merkel, cancelliere tedesco uscente, che quasi certamente vincerà le prossime elezioni politiche, e il suo sfidante Martin Schulz della SPD, ex presidente del Parlamento europeo, che invece ha 61 anni e 63 Angela, quindi 2 anni di differenza. Ultima segnalazione per oggi, la copertina di Io Donna, dedicata a un'altra, il supplemento del Corriere della Sera, dedicata a una bionda che una volta era famosa per essere una rossa, e che è Gillian Anderson, mitica protagonista di X-Files. Però lei forse, come tante persone magari che diventano protagoniste di serie di estremo successo, poi ha dovuto un po' faticare per trovare una vita dopo X-Files. Era l'ultima segnalazione per oggi. Prendetevi il tempo di sfogliare non solo i settimanali, ma anche i quotidiani di oggi e i supplementi domenicali in particolare, perché sono davvero interessanti. Una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.